Il lavoro sui tipi umani serve a creare sinergia tra le persone. Vediamo il simbolo lì in alto a sinistra. Cosa significa sinergia? Che c'è rapport, in termini PNL, rapport vuol dire che le persone si comprendono reciprocamente, in qualche modo nei termini di Hofstetter le due anime si interconnettono, ciascuna prende una parte dell'altra. L'opposto del rapport è il mismatching, l'incomprensione che genera appunto un'energia distruttiva, una lotta tra le persone, lo vediamo a destra. A sinistra vediamo la comprensione, perché si possa generare rapport occorre la comprensione dei valori critici reciproci, cioè il rispetto dei valori critici di A e di B. E un buon comunicatore, in questo caso A, dovrebbe essere in grado di cogliere al volo i valori critici di B.